Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Concordo con la sentenza della Corte europea che boccia l'esposizione del crocefisso nelle scuole italiane e ritengo che vada letta nel senso che tutte le religioni o confessioni hanno pari dignità e quindi ognuno dovrebbe avere il diritto di vedere esposto il simbolo della propria, ma questo creerebbe forse maggior conflittualità. Una miglior soluzione per una cultura condivisa sarebbe invece quella di insegnare nelle scuole la storia e l'essenza delle religioni, il bisogno di etica che ne sta alla base, il rispetto per tutte. Finché ognuno vedrà solo il proprio orticello, non ci sarà una vera umanità, tantomeno cristiana. Donata. In merito alla sentenza che impone di togliere il crocefisso dalle pareti degli edifici pubblici, ho sentito numerosi pareri. È evidente che per quanto tutti siano meritevoli di rispetto e considerazione, a mio avviso difficilmente si potrà trovare un accordo tra le due visioni estremiste della vicenda. Certo, non sono io a poter dare una soluzione, ma mi sono posta questo interrogativo. Nella nostra società sempre più multietnica, multirazziale, multiculturale e con diverse religioni che si dovrebbero incontrare senza scontrarsi, dove c'è un continuo richiamo alla solidarietà e all'accoglienza del diverso, perché la prima cosa che si pensa è togliere invece di integrare? A mio avviso, il vero atto di apertura potrebbe essere quello di aggiungere i simboli anche di altre religioni e culture per insegnare la tolleranza. Anche nei confronti dei simboli che non ci appartengono. Chi scrive è una persona laica da sempre e che continuerà ad esserlo e alla quale il crocifisso non porta fastidio né offesa. Inoltre, nella mia laicità, penso che la figura di Cristo porti valori positivi, al di là del fatto che si sia cattolici o meno, tra cui la tolleranza nei confronti degli altri. E di questo c'è bisogno davvero. Anna, Perugia. Gesù in croce non piace a tutti. Sembra che il suo messaggio irriti, offenda quasi. Mi chiedo una cosa. Basta che una mamma voglia staccarlo dal muro per impedire a chi lo vuole di rivolgergli una preghierina ogni mattina, magari prima dell'interrogazione? Non dovrebbe contare anche in questo caso la decisione della maggioranza, come per qualsiasi banale scelta in condominio, per esempio il colore della moquette dell'atrio? Se in una classe ci sono 30 bambini, è sufficiente che un genitore sia contrario perché il suo volere abbia esecutività? La Corte di Strasburgo può dire quello che vuole, ma non credo possa obbligarci a mettere in soffitta i nostri simboli, i nostri punti di riferimento, le nostre consolazioni. Non lo trovo giusto e neppure saggio. Giulia. Una città come Napoli, dove ti uccidono e la gente semplicemente si scansa, è una città malata. E questo non è certo il primo video in cui si vedono queste cose. Vi ricordate del video del rumeno ucciso in metropolitana? Un giudice che lancia un appello per avere informazioni sul killer? Istituzionalmente, forse, un giudice non dovrebbe usare tali mezzi, ma se sono utili ai fini delle indagini, ben vengano. Se vuole scuotere l'opinione pubblica e l'animo e l'intelletto delle persone, deve utilizzare tali mezzi. Leonardo. Sono un napoletano che proprio non stima la sua città. Sguaiata, rumorosa, incivile, pronta ad impazzire per un gol della propria squadra, ma incapace di far valere i propri diritti, anche se sacrosanti. Ma questa nuova accusa di indifferenza proprio non mi va giù. È la seconda volta che vengono trasmessi, chissà perché, dei videoclip raccapriccianti, come l'omicidio di un povero rom o l'assassinio di un boss o chissà chi della camorra, per poi evidenziare l'indifferenza dei napoletani. Possibile che non si capisca com'è la camorra? Possibile che non si percepisca la grande paura che prova chi improvvisamente si trova coinvolto in un trambusto del genere? La camorra non perdona. Se pensa che tu sei un osservatore inopportuno, capace semmai di riconoscere qualcuno del gruppo malavitoso, la tua fine è segnata anche dopo mesi e anni. E non c'è nessuno in grado di proteggerti, né lo Stato, che qui lo si vede solo a fine mese nel raccogliere l'obolo delle tasse, visto che manca del tutto, ora più che mai, né le forze dell'ordine. Di questo è meglio non parlare, perché verrebbe uno scoramento senza fine. Non capisco perché il napoletano dovrebbe vergognarsi, visto che non si vergogna lo Stato, che vede da decenni gente di scarsi scrupoli spadroneggiare sul suo territorio, che ricatta inermi cittadini, e ricatta lo Stato stesso. È strano sentire i notiziari parlare di certi malavitosi, dopo l'ennesima carneficina, disquisendo circa le loro appartenenze, i loro traffici, le loro malsane abitudini. Mancano solo l'indirizzo e il numero telefonico. Questi soggetti non sono tallonati strettamente, anzi, sono liberissimi di muoversi a loro piacimento. Si dovrebbe dichiarare guerra a costoro, comunicandolo alla stessa Europa e con tutte le armi a disposizione, bombe, carri armati e quant'altro. Che non si sorrida, vi prego, anche perché questo silenzio dello Stato è molto preoccupante, perché è fetido da morire. Politici che non sono politici e agganci che sanno solo di morte. Intanto il napoletano indifferente continua a soffrire, preoccupato per il suo futuro popolato sempre da due stati, uno ufficiale e l'altro parallelo, che qui insanguina e al nord investe, ripulendo il denaro dal sangue e dalle lacrime. Il napoletano indifferente trepida per i figli e se questi ritardano anche solo di pochi minuti, riesce ad immaginare scene apocalittiche e angoscianti. L'ho detto, sono un napoletano che non stima Napoli, perché è sguaiata, rumorosa, incivile e adesso anche indifferente. Enzo. Dopo le recenti vicende, forse è il caso di iniziare ad occuparsi dell'emergenza carceri. Bisogna andare oltre la semplice registrazione del balletto polverone, ipocrita politico-mediatico, che mischia tutto insieme. La tragica vicenda di Stefano Cucchi e il suicidio, il 62esimo nel 2009, della brigatista Diana Blefari, e che tra qualche giorno sarà già terminato. E bisogna andare oltre il solleticare l'opinione pubblica, suscitando solo epidermiche e istintive reazioni e rinunciando ad essere occasione di informazione e conoscenza. L'emergenza carceri è innegabile, sta nei numeri. Limite fisico massimo di capienza carceri, 65.000 detenuti. Detenuti al 15 ottobre 2009, 64.979. Media mensile nuovi ingressi, 1.000 unità. E al momento la risposta dello Stato sembra essere solo la seguente: sollecitare tramite circolari i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria e per loro tramite i direttori delle carceri ad assicurare il rispetto degli standard minimi individuati dalla Corte europea. L'emergenza carceri sta nelle morti, come se in Italia esistesse una specie di pena di morte materiale che colpisce la comunità carceraria tutta, detenuti e carcerieri. Suicidi e morti per atti di autolesionismo tra i carcerati, malattie e suicidi tra il personale penitenziario. All'organico di polizia penitenziaria mancano 5.000 unità. I tagli di spesa previsti ridurranno il personale. Ci sono carceri nuove di zecca, non utilizzate per mancanza di personale e al momento la risposta del governo sembra essere solo la seguente. Ipotesi di costruzione di nuove carceri. Carlo. Probabilmente non ho troppo spirito cristiano e non perdono facilmente, ma se devo essere sincera e non fintamente buona, la morte per suicidio della signora Blefari non mi ha segnata, se non positivamente. Non provo tutta questa solidarietà umana verso chi freddamente ha contribuito alla morte di un uomo, non mi importa se era depressa, se soffriva, forse si meritava di stare così. Perché si prova tanta pietà sempre verso gli assassini, dimenticandosi che devono scontare una pena per le gravissime azioni che hanno commesso? Forse esagero, ma sento che con la sua azione ha fatto giustizia da sola. Lei stessa lo ha deciso. E troppe lacrime, al di là di quelle della sua famiglia per la quale rappresentava un affetto, le trovo fuori luogo. Tutti questi personaggi, quando agiscono, sono in perfetta salute, in perfetta coscienza. Poi, stranamente, sono tutti deboli e fragili, psicologicamente provati. Beh, il dottor Biagi sta molto peggio. È solo, freddo, sottoterra da anni, irreversibilmente morto. Giulia. Scrivo a proposito del tema politici e scandali. Sono più che certa che tutto nasca dall'essere costretti ad osservare solo ed esclusivamente questo spettacolo, senza poter prendere in considerazione altre realtà più edificanti. Mi spiego. Se immediatamente i personaggi coinvolti fossero sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, fino alla fine delle indagini, che dovrebbero essere serie, rapide e soprattutto riservate, tutto questo chiacchiericcio che immediatamente vi si instaura attorno non sarebbe possibile. Tutto viene sempre alimentato dall'alto, non certo dal popolo bue, che spesso si comporta in tal modo, perché questa è la sola realtà che lo circonda, è la sola cultura di cui può fruire. Non sono affatto d'accordo sull'idea che un politico possa fare quello che vuole nella sua vita privata. Certo, nei normali fatti quotidiani sì, ma non quando si espone alla ricattabilità, perché nell'esercizio delle sue funzioni può fare scelte che finiscono poi per coinvolgere anche tutti noi. Donata. Caro direttore, La formula della vostra radio mi piace molto, è coinvolgente, e lo prova il fatto che mentre l'ascolto sento sempre il desiderio di telefonare, anche se non l'ho mai fatto. Fra le varie rubriche ve ne sono due, la Zanzara e Melog, che più di altre hanno il compito di provocare reazioni, ma che hanno anche i conduttori meno pazienti. Alcune volte gli argomenti suscitano reazioni intellettuali, altre volte emotive, e non sempre le opinioni espresse dai conduttori sono condivisibili dalla maggioranza degli ascoltatori, essendo comunque opinioni soggettive. Martedì sera, la frase «chi se ne frega della cocaina» assunta dai parlamentari è stata un'espressione poco felice. Ebbene avrebbe fatto il conduttore a non insistere a voler avere ragione, ma a lasciare che gli ascoltatori esprimessero le proprie opinioni, limitandosi ad approfondire l'argomento con loro. Se il conduttore si arrocca sulle proprie posizioni, si finisce con il trasformare le rubriche in un abbaiare di cani che non serve a nulla. La vostra radio ha dei pregi. Quello di essere coinvolgente, come già detto, quello di cercare, almeno per ora, l'oggettività, quello di proporre un interlocuire educato, quello di invitare veri esperti. Non buttiamo via tutto ciò. Già siamo spesso costretti a spegnere la TV. Non fateci spegnere anche la radio. Veleda. Cara Veleda, ho scelto la sua lettera, tra quelle non molte, in verità, che mi hanno sottolineato come inopportune e criticabili le parole di Giuseppe Cruciani ieri sul tema della droga e del test per i parlamentari. La Zanzara, appunto ancora, e mi si chiede se il direttore sia d'accordo con le tesi del conduttore. Allora, permettetemi due risposte. La prima, nel merito. Penso che la missione del parlamentare sia eticamente incompatibile con stili di vita che facciano perdere il senso della propria responsabilità, e la droga è tra questi. E penso anche che sarebbe non solo utile, ma indispensabile, che i cittadini potessero avere anche tutte le notizie sulla personalità di chi si candida a rappresentarli e che potessero, e anche questa la cosa più importante, decidere attraverso le preferenze chi inviare in Parlamento e chi no. La seconda risposta è nel metodo. E qui devo citare una frase attribuita a Voltaire. Non sono d'accordo con quello che dici, ma lotterò fino alla morte perché tu abbia la libertà di dirlo. Ecco, non sempre sono d'accordo su quanto dice Cruciani e talvolta anche sul modo con cui lo dice. Ma entro i limiti di un normale e corretto dibattito, pur con i toni caldi e appassionati che richiede una politica arruffona come quella italiana, mi batterò perché anche Cruciani possa continuare a esprimere le proprie idee. E non ho alcuna intenzione di trasformare la Zanzara in un pappagallo. Gentilissimo direttore, da alcune settimane si sono concluse le prove di ammissione alle varie facoltà universitarie italiane. La selezione è basata su criteri di merito, per cui i giovani devono impegnarsi dopo la maturità liceale nello studio di parecchie materie. Molti di loro, nonostante l'impegno, la buona preparazione e un punteggio elevato conseguito nei test, si vedono respinti. A Bologna ci sono state, per la facoltà di medicina, circa 2.000 domande, di cui circa 70 erano di extracomunitari. Se consideriamo che dei 350 posti resi disponibili, 50 erano per loro, si vede chiaramente che il rapporto fra le domande e la disponibilità è a netto sfavore per i cittadini italiani. Pertanto, giovani di altri paesi hanno avuto molte più probabilità di accedere alle nostre università dei nostri stessi giovani. Se per gli italiani un punteggio di 40 punti è insufficiente per essere ammesso alla facoltà, come si giustifica che un extracomunitario possa entrare all'università con un punteggio addirittura negativo, in virtù di posti riservati che prescindono dalla preparazione? Come si può accettare che un criterio di selezione basato sul merito e lo studio venga smentito e vanificato quando si tratta di persone che sono diverse solo per luogo di nascita? Come avverrà la formazione universitaria di costoro che dimostrano di non possedere nemmeno i livelli minimi di cultura generale? È prevista forse una promozione d'ufficio? Ma la formazione di un medico può essere diversa solo per il nome che porta, con la scusa che questi ragazzi poi andranno ad esercitare al loro paese? Di quale prestigio di quale università stiamo parlando se la formazione avviene con criteri così antitetici? Due cose sono per me certe. Il razzismo esiste e questi fatti fanno prevedere, di qui a poco, l'insorgere di conflitti razziali insanabili. Inoltre, noi giovani, da queste esperienze, non possiamo certo trarre fiducia nelle nostre istituzioni. Camilla. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.